Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Auschwitz, con i suoi reticolati, le camere a gas, le baracche, i forni crematori, non ci abbandona. Al contrario, ci interpella costantemente, ci costringe ogni volta a tornare sul ciglio dell'abisso e a guardarvi dentro, con gli occhi e con la mente pieni di dolore e di rivolta morale. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata della Memoria. Sull'orlo di quell'abisso ci chiedono oggi di tornare gli dèi di Olimpia e dello sport, seguendo il filo rosso della memoria e dello sport. Perché ad Auschwitz, paradosso dolente ed estremo, lo sport ci fu, anzi ci fu la negazione dell'attività sportiva, stravolta nei suoi significati originari, e divenuta laggiù strumento di umiliazione, abiezione, tortura, morte. Perché illogica e disumana era la logica stessa del lager, del campo di sterminio. La voce più alta tra quante hanno raccontato l'abisso dell'umanità, quella di Primo Levi, così descriveva le regole capovolte dell'universo concentrazionario. È difficile che nella vita comune uno naufraghi senza che nessuno gli tenda una mano, almeno simbolicamente. E invece era la regola là, chi cadeva, cadeva, andava fino in fondo, non c'era più nulla che lo arrestasse, nessun ramo che lo arrestasse. E chi andava in su non trovava nessun correttivo alla sua ascesa, come è o dovrebbe essere la legge nella vita civile, per cui uno non acquista potenza indefinitamente, o non dovrebbe perlomeno. In una società civile non deve essere così, la marcia all'insù, come quella all'ingiù, sono frenate. Là non erano frenate, come un pallone che va in su e un blocco di piombo che va in giù. La violenza distruttiva da parte di uomini nei confronti di altri uomini era la regola base del campo di sterminio, ricordava Levi. Gli animali non si aggrediscono se non con molta moderazione, non si sterminano fra di loro. Non esiste lo sterminio reciproco tra le specie animali. Non è naturale. La teoria del nazismo era quella dello sterminio intraspecifico, all'interno della specie umana. La specie umana era stata spaccata artigliosamente in due o in quattro o in 20 parti. Una era quella buona e le altre non erano buone, erano destinate o era lecito sterminarle. Questo era innaturale. Il nazismo era innaturale, il razzismo non è naturale. Un mondo rovesciato, quello del lager, in cui ci caliamo seguendo le parole di Levi e con un'altra guida d'eccezione. Sergio Giuntini, storico dello sport, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Storia dello Sport. Ben ritrovato a Olimpia, professor Giuntini. Grazie per l'invito. Giuntini, ci sono almeno due luoghi della produzione letteraria di Primo Levi in cui il calcio si intreccia all'esperienza del lager. Partirei dal primo di questi. Ci troviamo nei Sommersi e i Salvati, il testo del 1986 che lo scrittore torinese e reduce di Auschwitz dedica alla rilettura della sua esperienza di prigionia. Un testo, professor Giuntini, che sviluppa e amplia una riflessione già presente in Se questo è un uomo, come spiegava proprio Levi. Sembra che per natura, per nascita, gli uomini si dividono in due categorie, cioè quelli che vanno in su e quelli che vanno in giù. È una cosa estremamente disgustosa questa, contraddice a tutto quello che noi pensiamo in fatto di morale o di sociologia o di politica, ma sembrava che fosse così allora, cioè che ci fossero proprio i sopra e i sotto, i sommersi e i salvati, quelli che vincono e quelli che perdono. E sono cose che tutti quanti abbiamo intravisto nella vita di tutti i giorni, ma come sempre avveniva, in un campo di concentramento queste cose avvenivano senza coperchio, avvenivano a occhio nudo, diciamo così, non occorreva il microscopio per vederle e neppure una meditazione, ma si andavano agli occhi. Si vedeva arrivare il convoglio di gente nuova e dopo pochi giorni la scelta spontanea era avvenuta, cioè come un setaccio, c'erano quelli che restavano sopra e quelli che passavano sotto, che ho chiamato cinicamente sommersi e salvati per questo. Non è una salvazione nel senso cristiano questa, certamente no, era darwiniano piuttosto, erano gli idonei e i non idonei. Ebbene, quella che viene descritta da Levi nei Sommersi e i Salvati è una partita di calcio grottesca e straniante che si svolge alle porte dell'inferno. a sfidarsi le SS con i componenti del Sonderkommando, cioè il comando speciale di prigionieri, quelli che i nazisti obbligavano a prestare servizio nelle camere a gas, accompagnando i prigionieri destinati alla morte, raccogliendone e spogliandone i corpi, inviandoli poi ai crematori. Sentiamo le parole di Primo Levi nell'interpretazione di Mario Nutarelli. Nisli racconta dunque di aver assistito durante una pausa del lavoro a un incontro di calcio tra SS e SK, Sonderkommando, vale a dire fra una rappresentanza delle SS di guardia al crematorio e una rappresentanza della squadra speciale. All'incontro assistono altri militi delle SS e il resto della squadra. Parteggiano, scommettono, applaudono, incoraggiano i giocatori, come se invece che davanti alle porte dell'inferno la partita si svolgesse sul campo di un villaggio. Niente di simile è mai avvenuto, né sarebbe stato concepibile con altre categorie di prigionieri. Ma con loro, con i corvi del crematorio, le SS potevano scendere in campo alla pari o quasi. Dietro questo armistizio si legge un riso satanico. È consumato, ci siamo riusciti. Non siete più l'altra razza, l'antirazza, il nemico primo del Reich millenario. Non siete più il popolo che rifiuta gli idoli. Vi abbiamo abbracciati, corrotti, trascinati sul fondo con noi. Siete come noi, voi orgogliosi, sporchi del vostro sangue come noi. Anche voi, come noi e come Caino, avete ucciso il fratello. Venite, possiamo giocare insieme. Parole che fanno rabbrividire, professor Giuntini, in un testo davvero fondamentale nella scrittura leviana, vero? I sommersi e salvati è quel testo, come dire, che segna un po' l'ultima fase della vita di Levi. È quasi un testamento, insomma. E in questo suo ritornare sull'esperienza concentrazionaria dopo molti anni si coglie dalle sue pagine questo pessimismo, questo non essersi mai riuscito a liberare da questa esperienza. E il calcio diventa una metafora che fa capire appunto quanto il lager fosse un luogo dannato, di dannati. Aberrante è il significato di quella partita di calcio. Le vittime giocano con i carnefici e quindi diventano come loro, colpevoli e corresponsabili del loro stesso annientamento. La partita che Levi riproduce è appunto una partita tra SS e Sonderkommando, cioè coloro i quali avevano il compito ingrato di portare le vittime al crematorio, nel quale lui vede in questo permettere a dei deportati di giocare con le SS quasi un volerli trascinare nella loro crudeltà e nel gorgo caratterizzante i campi concentrazionari. La lezione che ci arriva da quella partita, da quelle pagine, professor Giuntini, è davvero amara. C'è proprio un sadismo in questa partita, cioè nel volerli sentire come, insomma, dei Caini nei confronti dei loro fratelli, le vittime, gli Abele di turno, insomma. È proprio un volerli corresponsabilizzare delle atrocità dei campi. Ma il calcio nel viaggio di Levi dentro e intorno al lager può diventare anche speranza. Ne parliamo fra poco, sempre qui a Olimpia. Olimpia, miti e verità dello sport. Il calcio ad Auschwitz. È sull'orlo dell'abisso che oggi ci chiedono di indagare gli dei dello sport, seguendo il filo rosso della memoria tracciato dalle parole di Primo Levi. Abbiamo visto le pagine drammatiche contenute nei sommersi e i salvati. Di ben altro respiro invece la partita di calcio che Levi descrive nella Tregua, il testo del 1963 in cui lo scrittore piemontese racconta il suo avventuroso viaggio di ritorno a casa, Torino, dopo la liberazione del lager di Auschwitz. Professor Sergio Giuntini, nostro ospite oggi a Olimpia. Cosa descrive propriamente Levi in questo libro a proposito del football? Nella tregua descrive, durante il suo lungo travagliato tentativo di ritorno in patria, subito dopo la liberazione del campo di Auschwitz, un incontro che si tenne, un incontro calcistico che si tenne tra appunto una squadra raccogliticcia di ex deportati e una squadretta anch'essa, come dire, artigianale invece di locali nella località di Katowice. E questa è una partita di calcio che Levi utilizza come una sorta di ritorno alla vita, alla libertà, come riprendere le consuetudini di una vita quasi normale. Ed è un inserto all'interno appunto della tregua nel quale appunto fa per la prima volta capolino nella scrittura di Levi il calcio, ed ha questo senso metaforico, io credo, ecco, di segnare un passaggio dall'inferno del campo di deportazione a questo raggio di sole che è una partita di calcio appena riacquistata la libertà. Ebbene, sentiamo proprio le parole di Levi nell'interpretazione di Mario Nutarelli. Si trattava in realtà di una rivincita. Una prima partita era stata disputata senza particolare solennità 2 o 3 settimane prima ed era stata vinta di larga misura dagli italiani contro una squadra anonima e raccogliticcia di minatori polacchi dei sobborghi. Ma per la rivincita i polacchi sfoderarono una squadra di prim'ordine. Corse voce che alcuni giocatori, e fra questi il portiere, fossero stati fatti arrivare per l'occasione niente meno che da Varsavia. Mentre gli italiani, ahimè, non erano in grado di fare altrettanto. Questo portiere era un portiere da incubo. Era uno spilungone biondo, dal viso emaciato, dal petto concavo e dalle movenze indolenti da apache. Non possedeva affatto lo scatto, la contrazione enfatica e la nevrotica trepidazione professionale. Eppure, le poche volte che la palla veniva calciata in porta dagli italiani, lui era sempre sulla traiettoria come per caso, pur senza mai fare un movimento brusco. Riflettori puntati sul portiere avversario, quindi, ma sguardo divertito di Levi che si posa anche sull'altro grande protagonista per antonomasia di ogni sfida calcistica che si rispetti, l'arbitro. Sentiamo. Interrompeva il gioco continuamente a casaccio, con sibili prepotenti e con una sadica predilezione per i momenti in cui erano in corso azioni sotto porta. Se i giocatori non gli davano retta, e smisero ben presto di dargli retta perché le interruzioni erano troppo frequenti, scavalcava il parapetto del palco con le sue gambe stivalate, si cacciava nella mischia come un treno e tanto faceva finché non riusciva a impadronirsi del pallone. Allora, a volte lo prendeva in mano, rigirandolo da tutte le parti con aria sospettosa, come se fosse stato una bomba inesplosa. Altre volte, con gesti imperiosi, lo faceva mettere a terra in un punto del terreno. Poi si avvicinava poco soddisfatto, lo spostava di qualche centimetro, gli girava intorno a lungo meditabondo e infine, come convinto di chissà che, faceva cenno di riprendere il gioco. Professor Giuntini, quel portiere era davvero un fenomeno, eh? Questo portiere che doveva essere imponente, insomma, dal fisico particolarmente corpulento, alto, che in un certo senso con la sua presenza fisica, io penso, rapportata invece alle condizioni di denutrizione, di logoramento fisico che tutti i deportati avevano subito negli anni trascorsi ad Auschwitz, era quasi, come dire, un pericolo, viene visto come un incubo, come qualcosa di inquietante, ecco, sì. L'attenzione è sull'arbitro, invece, secondo me ha il dolce profumo della libertà. Il lager sembra davvero dimenticato, almeno per quegli istanti, tanto che l'attenzione dello scrittore è tutta concentrata su quell'omino con il fischietto. Diciamo che purtroppo, a torto o a ragione, gli arbitri sono, come dire, proprio un luogo classico per ogni appassionato, ma anche per uno scrittore dello sport, e sono sempre visti in un modo, come dire, che è un po' quello con il quale si vedono tutti gli arbitri, insomma, li ami se sono a tuo favore, li detesti al contrario. L'arbitro è quasi, come dire, è l'ultimo dei giocatori che viene così, anche quando si gioca tra ragazzini, che viene prescelto perché non si sa che altro fargli fare. Quindi è sempre un po' una figura, come dire, che ruota e ha un ruolo fondamentale nella partita, ma è ai suoi margini. Dal dramma alla speranza, quindi. Siamo ormai al termine del nostro viaggio nel calcio ad Auschwitz, sulle tracce di Primo Levi. Quale peso ha lo sport, professore, nella scrittura di Levi? Allora, Levi è uno scrittore che secondo me meriterà da parte della critica letteraria forse più attenzione di quella che gli è stata riservata finora, avendo soprattutto concentrato la critica, la sua lente di ingrandimento soprattutto alle opere appunto che raccontano l'inferno della deportazione. Ma la sua produzione letteraria è variegata, amplissima, e non è, come dire, saltuaria la presenza di qualche accenno allo sport. Ci sono altri libri nei quali vi faccenno. Per esempio c'è una bella poesia che si intitola Decathlon, nella quale appunto cerca di far capire quanto il decathlon sia una specialità che ti mette alla massima prova, insomma, in cui un uomo deve dimostrare di sapere fare tutto. E anche questo secondo me aveva un certo significato metaforico che andrebbe meglio indagato. E poi lui era un grande appassionato della montagna, lui ha scritto anche parecchie cose sulla montagna e probabilmente in montagna trovava quella libertà che gli era stata per tanto tempo negata. Sergio Giuntini, grazie per essere stato anche oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, a risentirci.